Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Nella stanza del biliardo il signor Rochester stava giocando con la signorina Ingram. Ci voleva un certo coraggio per disturbare un gruppo di persone così impegnate. Ciò che avevo da dire, tuttavia, non poteva essere differito. Perciò mi rivolsi al padrone di casa che era accanto alla signorina Ingram. Mentre mi avvicinavo, lei si girò a guardarmi con aria altezzosa. «Vuole parlare con voi, quella?» chiese al signor Rochester. Rochester si volse per vedere chi fosse quella. Fece una strana smorfia, una di quelle sue espressioni bizzarre ed enigmatiche. Lasciò andare la stecca e mi seguì fuori dalla stanza. «Allora, Jane», disse appoggiandosi alla porta dello studio che aveva chiuso dietro di sé. «Se non vi dispiace, signore, vorrei potermi assentare per una settimana o due». «Per fare cosa e per andare dove?» «Per far visita a una signora malata che mi ha mandata a chiamare». «Quale signora malata? Dove abita?» «A Gateshead». «Ma è a 100 miglia da qui. Chi può essere questa signora che vi manda a chiamare da tanto lontano?» «Si chiama Reed, signore. La signora Reed». «Reed di Gateshead. Conoscevo un Reed di Gateshead, un magistrato». «È la sua vedova, signore». «E voi cosa avete a che fare con lei? Come mai la conoscete?» «Il signor Reed era mio zio, il fratello di mia madre». «Ah, non me ne avete mai parlato, mi avete sempre detto di non avere parenti». «Nessun parente è disposto a riconoscermi, signore». «Il signor Reed è morto e sua moglie mi ha cacciata di casa». «Perché?» «Perché ero povera, oltre che un peso». E mi detestava. «Quanto tempo starete via?» «Il meno possibile, signore». «Non più di una settimana, promettetemelo». «Non posso darvi la mia parola, potrei essere costretta a rimangiarmela». «Ad ogni buon conto tornerete. Per nessun motivo vi lascerete convincere a rimanere lì in pianta stabile». «Quando volete partire?» «Domani mattina presto, signore». «Scenderete in salotto dopo cena?» «No, no, signore, devo prepararmi per il viaggio». «Dunque dobbiamo separarci per un po' di tempo?» «Credo proprio di sì, signore». «E come si celebra la cerimonia degli addii, Jane? Insegnatemelo voi. Io non sono pratico di queste cose». «Ci si dice addio o qualunque altra formula del genere». «Allora ditelo». «Addio, signor Rochester, per il momento». «E io cosa devo rispondere?» «Lo stesso, signore, se vi va». «Addio, signorina Eyre, per il momento». «Tutto qui?» «Sì». «A me sembra poco, devo dire. È anche freddo e non molto cordiale. Mi piacerebbe anche qualcos'altro, una piccola giunta di rito, una stretta di mano, per esempio. Ma no, nemmeno quello mi basterebbe». «E dunque non siete disposta ad altro che a dirmi addio, Jane?» «È sufficiente, signore. Si può esprimere l'amicizia in una sola parola sincera come in molte». «Probabile, ma addio è una parola fredda e vuota». «Quanto rimarrà ancora appoggiato a quella porta?» mi domandai. «Voglio cominciare a preparare i bagagli». Suonò la campanella del pranzo e lui balzò via improvvisamente senza aggiungere una parola. Non lo vidi per il resto della giornata. E la mattina partì prima che si fosse alzato. Ricordavo bene la faccia della signora Reed. Ed ero ansiosa di vedere l'immagine familiare. Per fortuna il tempo smorza il desiderio di vendetta e mette a tacere gli incitamenti della rabbia e del rancore. Avevo lasciato quella donna col cuore colmo di odio e d'amarezza. Tornavo adesso da lei senza altra emozione che una sorta di compassione per i suoi tormenti e un forte desiderio di dimenticare e perdonare ogni offesa, per riconciliarmi con lei e stringerle la mano in amicizia. Ecco dunque la faccia conosciuta, dura e inflessibile come sempre, e poi quegli occhi che nulla poteva addolcire e quelle sopracciglia sempre un po' sollevate, imperiose, dispotiche. Quante volte quella faccia si era abbassata su di me piena di odio e di minacce. E come era vivo il ricordo delle mie paure e dei miei dolori infantili mentre ne seguivo il profilo spietato. Eppure mi chinai a baciarla. Lei mi guardò. Jane Eyre disse: «Sì, signora zia. Come state, cara zia?» «Sono molto malata. Qualche minuto fa stavo cercando di girarmi e mi sono resa conto che non riesco a muovere né braccia né gambe. Tanto vale che mi alleggerisca lo spirito prima di morire. Ci sono cose a cui non prestiamo attenzione quando siamo in salute, ma che sono un grande peso in un'ora come questa per me. C'è anche l'infermiera o ci siete solo voi nella stanza?» La rassicurai che eravamo sole. «Ebbene, per due volte ti ho fatto un torto di cui adesso mi pento. La prima è stata quando non ho mantenuto la promessa fatta a mio marito di allevarti come una figlia mia. L'altra, e qui si interruppe. Dopotutto non ha una grande importanza, forse», mormorò come parlando a se stessa. «E poi posso ancora guarire e umiliarmi così davanti a lei è penoso». Si sforzò di cambiare posizione, ma non ci riuscì. La sua faccia cambiò, come se sentisse qualcosa dentro di sé. L'anticipazione forse dell'ultimo spasimo. «Bene, devo farla finita. Ho davanti a me l'eternità, è meglio che glielo dica. Va a prendere il mio cofanetto, aprilo e prendi la lettera che troverai dentro». Seguì le sue istruzioni. «Leggi la lettera», disse. Era breve e lessi: «Signora, vorreste avere la bontà di inviarmi l'indirizzo di mia nipote Jane Eyre e di dirmi come sta? È mia intenzione scriverle a breve e invitarla a raggiungermi a Madeira. La provvidenza ha premiato i miei sforzi per garantirmi una certa agiatezza. E poiché non ho né moglie né figli, desidero adottarla ora che sono in vita e lasciarle alla mia morte tutto ciò che mi rimarrà. Vogliate accettare, signora, eccetera, eccetera, John Eyre Madeira». Era datata 3 anni prima. «Perché non ne ho mai avuto notizia?» domandai. «Perché ti odiavo troppo, e troppo profondamente per tenderti una mano e aiutarti a raggiungere la prosperità. Non riuscivo a dimenticare la tua condotta verso di me, Jane. La furia con cui una volta ti rivoltasti contro di me, il tuo tono quando dichiarasti di detestarmi più di qualsiasi altro essere al mondo, la tua espressione e la tua voce non erano quelle di una bambina, quando affermasti che il solo pensiero della mia esistenza ti faceva star male e che ti avevo trattato con una crudeltà mostruosa. Non riuscivo a dimenticare le mie sensazioni quando ti ergevi così, sputandomi addosso tutto il veleno che avevi nell'anima. Provai terrore, come se un animale che avevo colpito, ferito, mi avesse guardata con occhi umani e mi avesse maledetta con voce di uomo. Portatemi dell'acqua, presto!» «Cara signora Reed», le dissi offrendole da bere come mi aveva chiesto, «non pensate più a tutto questo. Perdonatemi per quelle parole violente. Ero una bambina allora. Sono passati 8 o 9 anni da quel giorno». Lei non ascoltò nemmeno quello che le stavo dicendo. Ma quando ebbe finito di bere e tratto un respiro, continuò: «Ti dico che non sono mai riuscita a dimenticarlo e mi sono vendicata. perché il fatto che tuo zio ti volesse adottare e ti mettesse in una condizione agiata non potevo proprio sopportarlo. Perciò gli scrissi dicendogli che mi rincresceva deluderlo, ma Jane Eyre era morta, morta di tifo a Lowood. Ora fa quello che vuoi, scrivi, smentisci la mia versione dei fatti, denuncia pure la mia menzogna. Tu sei nata per essere il mio tormento. La mia ultima ora è straziata dal ricordo di un'azione che non fosse stato per te, non avrei mai avuto la tentazione di compiere. Se vi convinceste a non pensarci più, zia, e a considerarmi con benevolenza e perdonarmi, hai un pessimo carattere, disse lei. Un carattere che ancora oggi io non riesco a capire. Com'è possibile che per 9 anni tu abbia sopportato docilmente qualsiasi cosa? Poi il 10° anno tu sia esplosa con tanta passione e tanta violenza. Non lo comprenderò mai. Il mio carattere non è così brutto come pensate voi. Sono impetuosa, ma non vendicativa. Tante volte da bambina sarei stata felice di potervi amare se me lo aveste concesso. E adesso desidero sinceramente riconciliarmi con voi. Datemi un bacio, zia. Avvicinai la guancia alle labbra, ma lei si rifiutò di toccarla. Disse che chinandomi sul letto la opprimevo e chiese ancora dell'acqua. Mentre la aiutavo a distendersi, poiché l'avevo sollevata e sorretta col braccio mentre beveva, posai la mano sulla sua, che era freddissima e madida di sudore. Ma quelle dita, sfibrate, si ritrassero al contatto, gli occhi vitrei evitarono il mio sguardo. Povera infelice, per lei era troppo tardi per cambiare la sua disposizione di spirito. Aveva vissuto odiandomi e odiandomi sarebbe morta. Il signor Rochester mi aveva accordato il permesso di assentarmi per una sola settimana, ma passò un mese prima che lasciassi Gateshead. Non avevo comunicato alla signora Fairfax il giorno esatto del mio ritorno, perché non volevo che mi venissero a prendere a Millcote col calesse o con la carrozza. Mi proponevo di percorrere la distanza che mi separava da casa a piedi, da sola e in silenzio. E in silenzio, dopo aver lasciato il bagaglio in custodia allo stagliere, sgusciai fuori dal George Inn verso le 6 di una sera di giugno e imboccai la vecchia strada di Thornfield, una strada che si snodava per lo più tra i campi e che a quell'ora era poco battuta. Nei prati stavano tagliando il fieno, o meglio, all'ora del mio arrivo i contadini stavano abbandonando il lavoro e tornando a casa con i rastrelli sulle spalle. Dovevo passare ancora per un paio di campi. Poi avrei attraversato la strada e sarei arrivata al cancello. Come sono cariche di rose le siepi! Ma non ho tempo di raccoglierle. Voglio solo arrivare a casa. Passo davanti a un alto cespuglio di rovo, coi rami carichi di germogli che sconfinano sul sentiero. Scorgo il muricciolo coi gradini di pietra e lì, seduto, vedo il signor Rochester con un libro e una matita in mano. Sta scrivendo. Arrivati a piedi da Millcote. Ma c'è uno dei vostri soliti scherzetti. Invece di arrivare con una bella carrozza sferragliante come un comune mortale, vi aggirate di soppiatto vicino a casa vostra al crepuscolo come un sogno o un'ombra. Che cosa diavolo avete combinato in questo ultimo mese? Sono stata con mia zia, signore, prima che morisse. Una tipica risposta da Jane Eyre. Gli angeli mi proteggano, arriva dall'altro mondo, dal regno dei morti. E me lo dice anche, incontrandomi qui solo all'imbrunire. Se solo usassi, vi toccherei per vedere se siete fatta di carne o d'aria, piccolo elfo. Briccona che siete, aggiunse dopo un momento di silenzio. È stata via per un mese intero e si è dimenticata di me, ci giurerei. Sapevo che avrei provato un piacere immenso incontrandolo di nuovo, anche se il timore che presto non sarei stata più al suo servizio mi amareggiava e sapevo di non contare nulla per lui. Ma Rochester aveva sempre, o almeno così pensavo io, un tale potere di trasmettere felicità che anche le poche briciole che spargeva strani uccelli sperduti come me mi sembravano un ricco banchetto. Le sue ultime parole furono un balsamo per me. Lasciavano forse intendere che gli importava qualcosa che io lo dimenticassi o no. Aveva definito Thornfield casa mia, come avrei voluto che lo fosse. Non si spostava dai gradini e io non osavo chiedergli di lasciarmi passare. Mi informai subito se fosse stato a Londra. Sì, immagino che l'abbiate scoperto grazie ai vostri poteri soprannaturali. Me l'ha scritto la signora Fairfax in una lettera. E vi ha anche detto che cosa sono andato a fare? Ah sì, signore, lo sanno tutti. Dovete vedere la carrozza, Jane, e dirmi se non si addice perfettamente alla signora Rochester. Jane, vorrei solo che anche il mio aspetto si addicesse un po' di più a lei. Ora ditemi, visto che siete una fata, non potete fare un incantesimo o darmi un filtro, qualcosa di simile, perché io possa diventare un bell'uomo? Questo va oltre i poteri della magia, signore. E dentro di me aggiunsi: il solo incantesimo di cui avete bisogno è un occhio innamorato, poiché al suo sguardo siete bello. O meglio, la vostra fermezza ha una forza che va oltre la bellezza. Talvolta Rochester aveva letto i miei pensieri inespressi con un'acutezza che non riuscivo a spiegarmi. In questa occasione non badò alla mia brusca risposta, ma mi sorrise con un sorriso tutto suo, che sfoderava solo di rado. Sembrava che ci tenesse troppo per spenderlo in ogni circostanza. Era la luce radiosa del sentimento, e adesso la riversava su di me. «Passate, Jane», disse facendomi posto sui gradini. «Andate a casa a fermare i vostri piedini stanchi e vagabondi sulla soglia di un amico». Tutto ciò che dovevo fare ora era obbedirgli, in silenzio. Non c'era bisogno di dire altro. Salii i gradini senza una parola, e senza una parola mi disposi a lasciarlo. Tuttavia un impulso mi trattenne, costringendomi a voltarmi. «Grazie, signor Rochester, per la vostra bontà», dissi. O qualcosa dissi al posto mio e mio malgrado. «Sono stranamente contenta di tornare da voi. Ovunque voi siate, è la mia casa, la mia sola casa». 2 settimane di strana calma seguirono il mio ritorno a Thornfield. Nessuno accennava al matrimonio del padrone di casa e non vidi nessun preparativo per la cerimonia. Quasi tutti i giorni chiedevo alla signora Fairfax se avesse sentito di decisioni in proposito, ma la risposta era sempre negativa. Cominciai ad accarezzare speranze che non avevo il diritto di nutrire, che il fidanzamento fosse rotto, che si fosse trattato di false voci, che uno dei due o entrambe avessero cambiato idea. Scrutavo il viso di Rochester per cogliere i segni della tristezza o dell'ira, ma non ricordavo di avergli mai visto un'espressione così serena e senza nubi. Se nei momenti che io e la mia allieva passavamo con lui mi prendeva lo scoramento e inevitabilmente mi sentivo abbattuta, lui diventava addirittura allegro.